L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e ben ritrovati per questa puntata nella quale rincontreremo i Plastic Busters, gli acchiappa plastica della Università di Siena. Ne parlammo circa un anno fa alla loro prima spedizione, ora si preparano alla seconda spedizione, quindi noi abbiamo riconvocato la professoressa Maria Cristina Fossi del Dipartimento di Scienze Fisiche della Terra e dell'Ambiente dell'Università di Siena, che è il coordinatore scientifico di questo progetto, per capire da lei quali sono gli obiettivi di quest'anno e riprendere più in generale le fila del discorso. Quindi parola alla professoressa Fossi per riassumerci un po' la situazione e presentarci il lavoro dei mesi a venire. Sì, il progetto Plastic Busters si articola in realtà in un progetto molto più ampio che vede come protagonista l'Università di Siena sotto l'egida, diciamo, l'ombrello delle Nazioni Unite, in quanto appunto le Nazioni Unite hanno lanciato da 2 anni un progetto che si chiama Sustainable Development Solution Network, in cui l'obiettivo fondamentale è quello di trovare delle soluzioni sostenibili per risolvere delle problematiche del pianeta, quindi ovviamente un progetto molto ambizioso. E l'Università di Siena da circa 2 anni è il leader della rete del Mediterraneo, quindi l'Università di Siena è il coordinatore della Med Solution, che è la tematica specifica legata alla sostenibilità nel Mediterraneo. E appunto l'estate dell'anno scorso il nostro progetto, che appunto questo titolo un po' ironico, Plastic Buster, è stato proprio eletto come, diciamo, progetto bandiera per una soluzione sostenibile nel Mediterraneo. La soluzione qual è? Monitorare la presenza e gli effetti delle plastiche nel bacino del Mediterraneo per trovare delle soluzioni di mitigazione sostenibili con il contributo di tutti i paesi che si affacciano sul nostro mare. Quindi Plastic Busters, ovviamente lo diciamo per chi magari non avesse visto quel famoso film, fa un po' riferimento ai Ghostbusters, quindi le acchiappa fantasmi in quel caso, in questo caso acchiappa plastiche. Esatto. Non perché le andate a ripulire, ma perché le andate a individuare per poi vedere gli effetti che possono avere, no? Questo esatto, è... esatto. Infatti, diciamo, il progetto, il fulcro principale del progetto qual è? Noi sappiamo che nel Mar Mediterraneo vengono riversate migliaia e migliaia di tonnellate di rifiuti. Questi rifiuti dal 70 all'80% sono costituiti da plastiche. Tanto per dare qualche numero, un europeo medio attualmente produce 520 kg di rifiuti, nel 2020 ne produrrà 680. Il 70-80% sono costituiti da plastiche. Questo cosa vuol dire? Non vuol dire che tutti questi rifiuti vengono riversati in mare, ma a causa di vari problemi, anche di cattiva gestione dei rifiuti a terra, il 70-80% delle attività che noi produciamo a terra possono riversarsi nell'ambiente marino. E questo ovviamente causa degli effetti che non solo sono effetti visivi, ma possono essere degli effetti estremamente negativi sugli organismi che popolano il nostro mare. L'obiettivo del progetto è cercare di capire cosa fanno le plastiche e in particolar modo le microplastiche, che sono dei frammenti di plastica di dimensione inferiore a 5 mm, sulla biodiversità del Mediterraneo, cioè cosa fanno le plastiche e le microplastiche sulle tartarughe marine, sulle balene, sui pesci, sui mitili che noi mangiamo. Quindi in sintesi questi minuscoli o piccoli e grandi frammenti di plastica che navigano nel Mediterraneo possono essere da una parte vettori di composti inquinanti, ma a concentrazioni che possono essere anche 1 milione di volte superiori a quelli dell'acqua, e dall'altra parte possono essere vettori di agenti patogeni. Allora, voi l'anno scorso, mi ricordo quando ci siamo sentiti per la prima volta, siete partiti con un progetto pilota che fa parte, esatto, ovviamente di tutto questo, con la Marina Militare Italiana. Esatto. Siete in procinto di partire per un secondo, no, progetto, e come si svilupperà quest'anno? Allora sì, il progetto di quest'anno ha una, diciamo, valenza triplice. Abbiamo e faremo 3 progetti pilota. Uno l'abbiamo già fatto all'inizio, fra la fine di maggio e i primi di giugno, utilizzando l'imbarcazione mediterranea, che è un'imbarcazione che percorrerà il Mediterraneo per 5 anni con finalità, diciamo, culturali e scientifiche. E con l'imbarcazione mediterranea abbiamo monitorato il sud del mare Adriatico, sia per il tema delle microplastiche, ma in particolar modo per valutare la presenza di frammenti di plastica in specie di pesci edibili. La seconda attività che svolgeremo, la svolgeremo di nuovo in collaborazione con la Marina Militare, per cercare di rispondere a una domanda molto importante: quanta plastica e che conseguenze può provocare la plastica che proviene dai fiumi? Infatti con la Marina Militare faremo 3 campagne, una di fronte all'Arno, una di fronte al Tevere, una di fronte al Po, campionando microplastiche sulla superficie del mare e plastiche presenti sui sedimenti e in carote, quindi valuteremo anche la datazione di queste microplastiche. E infine, diciamo, l'aspetto scientifico più interessante lo svolgeremo a settembre in collaborazione con ISPRA, con la nave oceanografica Astrea, e in questa sede noi avremo, diciamo, come zoom, il nostro obiettivo sarà monitorare la presenza delle microplastiche e delle macroplastiche nel santuario Pelagos, che è l'area marina protetta pelagica, diciamo un po' uno degli aspetti più importanti della biodiversità nel Mediterraneo, che si trova fra l'Italia, la Francia e il Principato di Monaco. E questo triangolo bellissimo dal punto di vista della biodiversità, dove c'è una presenza elevatissima di cetacei e di molte forme di vita protette, diciamo, dalle legislazioni internazionali. E quest'area però probabilmente è una delle aree più impattate dalla presenza di queste plastiche e microplastiche. Quindi il ricercatore dell'Università di Siena, in collaborazione con ISPRA, in collaborazione con IFREMER francese, che è uno degli istituti più importanti in questo campo, e con dei ricercatori americani, cercheremo proprio di capire quanto è l'impatto delle plastiche e delle microplastiche nel santuario Pelagos, studiando la distribuzione e la presenza di queste, gli effetti che queste possono avere sui cetacei e le tartarughe, ma in particolar modo anche gli effetti e la presenza in specie ittiche, quindi i pesci, certo, che ci indicheranno ancora una volta quanto è l'impatto di questa forma di inquinamento nel nostro mare. L'altro pianeta. E allora riprendiamo la nostra conversazione con la professoressa Maria Cristina Fossi, ricordo, del Dipartimento di Scienze Fisiche della Terra e dell'Ambiente dell'Università di Siena, coordinatore scientifico del progetto Plastic Busters, che ha come obiettivo valutare gli effetti della contaminazione di plastiche e microplastiche sui pesci e su altri organismi marini. La plastica non solo può arrivare a uccidere gli animali che la ingeriscono, ma rilascia anche inquinanti che interagiscono a vario livello con la salute degli organismi marini, che noi poi magari mangiamo, ed è su questo che si concentra il progetto dei Plastic Busters, vedere gli effetti di plastiche e microplastiche. Questo progetto, ricordiamo, è il progetto di punta di Med Solutions, che è il network per l'area del Mediterraneo coordinato dall'Università di Siena, che sta all'interno dell'iniziativa ONU Sustainable Development Solutions Network. Stavamo parlando dell'alta concentrazione di plastiche e microplastiche anche nella zona protetta del santuario Pelagos, cioè quell'area marina compresa grosso modo tra il territorio francese, quello monegasco e italiano, fino alle coste della Toscana, per intendersi. E quindi proseguiamo su questo argomento. Noi abbiamo chiesto alla professoressa perché c'è una particolare concentrazione in quest'area, che è, allora, quell'area geograficamente. Abbiamo già dei dati provenienti dalle ricerche, appunto, fatte negli anni precedenti, che dimostrano che in alcune zone del santuario Pelagos esistono delle concentrazioni di microplastiche molto simili a quelle trovate in quella che si dice North Pacific Gyre, quelle famose vortici del Pacifico, chiamate anche isole del Pacifico, sì, di plastica. Certo. E questo perché? Perché è un'area fortemente antropizzata, un'area dove c'è un elevatissimo traffico navale, un'area dove, appunto, a causa di particolari correnti, in particolar modo nelle zone pelagiche, cioè di alto mare, si concentrano delle grandi quantità di microplastiche e macroplastiche. Il problema qual è? Che quelle aree sono per l'appunto l'area frequentate anche dalle balene, quindi la balenottera comune, che è l'unica balena del Mediterraneo, si trova in concentrazione molto elevata in questa zona nel periodo estivo per alimentarsi, e sfortunatamente si alimenta in una zona che è molto ricca di plastiche e microplastiche. Quindi questo è un aspetto molto importante dal punto di vista proprio ecologico della conservazione della biodiversità, ma anche delle possibili ricadute sulla salute umana. Certo. Comunque noi peschiamo e ci alimentiamo, certo, molto in questa zona. Quindi questo è il nostro programma, appunto, quest'estate, è quello di coprire questi tre aspetti fondamentali: l'Adriatico, i fiumi come possibili sorgenti di impatto di plastiche e microplastiche, e il regno della biodiversità del Mediterraneo rappresentato dal santuario Pelagos. Questo lo faremo con un approccio multidisciplinare che comprenderà appunto ricercatori di vari paesi e tecnologie diverse che andranno dallo studio appunto attraverso anche movimenti delle correnti, studi approfonditi sulla ittiologia e la biologia della pesca, studi approfonditi sulla presenza di cetacei. Una curiosità, con chi collaborate? Abbiamo detto l'Università di Siena è capofila, sì. Poi questo progetto a sua volta è capofila, abbiamo sì. Nominato l'ISPRA, ha nominato l'Istituto di Ricerca Premier. Francese, esatto. Chi sono altri collaboratori? Perché questo è un progetto appunto mediterraneo, quindi esatto. È allargato a vari paesi. Esatto, allora per quanto riguarda il progetto pilota che le ho descritto appunto del Santuario Pelagos, i principali protagonisti sono l'Università di Siena, IFREMER, ISPRA, Istituto LAMMA e l'Istituto Five Gyar, che sono appunto questi americani che studiano l'impatto delle plastiche nel mondo. Ovviamente il nostro obiettivo, come appunto avevamo già detto anche l'anno precedente, è quello di estendere questo progetto e a tutto il Mediterraneo. Perché questo? Perché il problema è un problema che va risolto su scala mediterranea. Se io domani vado e butto un pezzo di plastica, lo dico in maniera ironica, in Turchia, certo, questo probabilmente dopo qualche mese si può trovare in Tunisia. Cosa vuol dire? Vuol dire che la risoluzione di questo problema va fatta su scala globale, su scala di bacino. Quindi il nostro progetto è un progetto molto più ampio, che comprende partner di quasi tutti i paesi del Mediterraneo. Quindi già abbiamo le lettere di appoggio e di endorsement a questo progetto da più di 35 istituzioni di paesi del Mediterraneo, non solo paesi europei ma anche paesi del Nord Africa. Quindi ad esempio una istituzione importante che è già coinvolta è l'Università di Sousse con l'Istituto di Biotecnologie, quindi la Tunisia. Abbiamo partner in Marocco, ma uno degli aspetti fondamentali è che nel progetto è coinvolto UNEP-MAP, che è la Convenzione di Barcellona che abbraccia tutti i laboratori dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo. E a questo proposito appunto rubo due minuti per dire una cosa, che questo progetto è un progetto molto importante, molto ambizioso ma anche molto costoso, e quindi noi stiamo cercando, infatti volevo proprio arrivare a questo, perché tutti i laboratori di ricerca sono sicuramente ben intenzionati rispetto al progetto, ma portarlo avanti poi è una questione anche economica, e molti paesi del Mediterraneo tra l'altro non versano in un buon periodo esatto. Da un punto di vista economico, e quindi i centri di ricerca sono i primi a risentirne probabilmente. Esatto, quindi ecco appunto la sua osservazione è importantissima, perché ora apparentemente questa sembra un'attività di ricerca, ma non è solo un'attività di ricerca, è fondamentalmente un'azione di mitigazione e di conservazione del Mediterraneo. Noi facciamo questo non solo perché siamo dei ricercatori e perché ci interessa studiare l'effetto delle microplastiche su una balena, ma perché questo è un segnale che qualcosa non va nel nostro mare, che va risolto. E per farlo abbiamo bisogno ovviamente di sponsor, di attività di finanziamento. Noi ora stiamo presentando il progetto con più di 30 partner dei vari paesi del Mediterraneo a Union for Mediterranean, per una ricerca di sponsor. Union for Mediterranean è praticamente l'insieme dei ministri dell'ambiente e degli esteri di tutti i paesi del Mediterraneo. Ma oltre a questo noi abbiamo bisogno anche di sponsor minimi, da un supermercato che può essere interessato a dare il suo marchio di appoggio a queste attività, come a importanti industrie che lavorano nel settore della plastica, perché la plastica non è una cosa da rifiutare assolutamente, perché noi viviamo in un mondo che è costituito da plastica, quindi questo non vuol dire che non dobbiamo utilizzare la plastica, la dobbiamo utilizzare in una maniera sostenibile, quindi incentivando il riciclaggio, il riutilizzo e la rimozione laddove essa è possibile. Quindi le industrie che lavorano nelle bibite che utilizzano bottiglie di plastica, quindi questo è un messaggio non solo scientifico, non solo informazione, ma anche di mobilitare, diciamo, l'opinione pubblica a aiutarci a difendere il Mediterraneo, quindi non solo il nostro mare, non solo le nostre creature che vivono nel nostro mare, ma anche le nostre tavole. Certo, la qualità e la qualità del cibo che mangiamo. Questo aspetto che può essere estremamente molto negativo. Sicuramente. Dunque, tutto questo in vista poi del 2015, che dovrebbe essere l'anno in cui dai progetti pilota si passa al grosso del lavoro. Esatto, sì. Che quindi avreste in mente di sviluppare nell'estate prossima? Allora, il progetto probabilmente in termini proprio operativi di crociera dovrà abbracciare 2 anni per consentire una navigazione di 4-5 mesi per anno, sì. E la navigazione sarà l'obiettivo principale, perché appunto in questo. Così diciamo anche all'eventuale sponsor che cosa serve, no? Questo suo contributo serve per 2 anni di lavoro a partire dall'estate prossima. Insomma. Esatto, 2 anni di lavoro in campo con ovviamente grandissima visibilità delle nostre attività, che seguiranno 2 anni dopo, legate ad attività di analisi di tutti i dati e fondamentalmente a realizzare tutta una serie di attività di mitigazione che stiamo progettando. Una di queste attività di mitigazione, che la faremo in collaborazione con Consorzio Mediterranea, è quello che si definisce Fishing for Litter, quindi attivare tutta una serie di progetti pilota nel Mediterraneo in cui i pescatori, quando vanno in mare e pescano il loro pesce, insieme a questo trovano il 50% della rete invasa dai rifiuti, di cui molti sono plastiche, invece di ributtarli in mare, incentivare azioni di rimozione e di riciclaggio. Questa è un'azione. Altre azioni possono essere fatte proprio con delle azioni pilota per sperimentare attività di degradazione batterica delle plastiche, o in tutto questo azioni di mitigazione legate alla rimozione delle plastiche dalle spiagge o da zone di accumulo. Quindi, oltre a studiare gli effetti di queste plastiche, noi agiremo direttamente proprio come The Plastic Buster, che cercano anche di recuperarle e di eliminarle dove possibile. Certo. Tutto questo ovviamente richiede cosa? Il network, una rete di istituzioni, sia di ricerca che di governance, molto coordinate fra di loro, che hanno come obiettivo fondamentale quella non solo di mappare il Mediterraneo, ma anche di sviluppare delle azioni concrete di mitigazione per ridurre, diciamo, questo flagello. E questo potrebbe essere un dato importantissimo anche dal punto di vista proprio di ricaduta di governance, sia nell'ambito della strategia marina europea, che è una grossa direttiva quadro della Commissione europea, ma anche nell'ambito appunto di importantissime convenzioni internazionali come la Convenzione di Barcellona. Quindi questo progetto è a servizio anche di queste azioni di governance che devono essere fatte tutti insieme. Grazie a tutti per l'attenzione, grazie alla professoressa Fossi per averci parlato di Plastic Busters. Se tra gli ascoltatori ci fosse qualcuno interessato a una sponsorizzazione per questo progetto, vi ricordo che il riferimento è l'Università di Siena. Per scrivere a noi invece l'altro pianeta @radio24.it. Da Laura Bettini l'appuntamento è per la prossima settimana alla stessa ora.